Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. In questi mesi di crisi finanziaria abbiamo avuto modo di fare diverse considerazioni su come gestire il nostro risparmio. È un periodo molto particolare perché i risparmiatori preferiscono fare delle scelte di investimento di cortissimo respiro senza prendere posizioni a lunga scadenza, perché c'è la fuga generalizzata dal mercato azionario, perché i rendimenti dei titoli di Stato sono ai minimi, perché si preferisce mantenere il proprio risparmio il più liquido possibile, parcheggiarlo in conti di deposito che stanno andando tanto di moda. E in uno scenario preoccupante, delicato come quello attuale, in continua evoluzione, è finita sotto i riflettori anche la consulenza finanziaria, perché la gente si fida sempre di meno del proprio interlocutore. Sicuramente c'è larga sfiducia nel settore bancario, addirittura le banche fino a pochi mesi fa non si fidavano neanche tra di loro. E allora ci chiediamo: qual è la miglior consulenza possibile per noi, soprattutto in questo momento? Perché ci facciamo questa domanda? Perché in Italia si sta rafforzando il presidio della consulenza finanziaria indipendente. Stiamo parlando di quelle figure prive di conflitto di interesse, cioè non collocano prodotti per nessuna casa di investimento né per nessuna grande istituzione finanziaria, e sono figure consulenziali remunerate esclusivamente dalla clientela. In molti di noi si interrogano che differenza ci sia fra questo tipo di consulenza e quella invece fornita dal canale più noto e più diffuso, che è quello appunto del promotore finanziario. Allora, noi vorremmo parlare di questa mattina, naturalmente ascoltando anche, se vorrete, la vostra esperienza. Come vi state muovendo in questo momento? Che tipo di concetto avete della consulenza finanziaria? A chi vi affidate? A chi vi siete affidati? State cambiando un po' la vostra propensione? Ovviamente, grazie anche alle vostre considerazioni, potremo animare il dibattito questa mattina con Cesare Armellini, presidente del NAFOP, che è l'Associazione Nazionale dei Consulenti Indipendenti, nata tra l'altro da poco, sicuramente ha un'esperienza più contenuta in termini temporali rispetto invece ai promotori finanziari. L'ANASF, l'Associazione Nazionale di Categoria, ha compiuto da poco i 30 anni addirittura, per cui metteremo sul piatto anche esperienze molto diverse. Insieme a Cesare Armellini, che tra l'altro è presidente anche di Consultic, che è proprio una società di consulenza indipendente, abbiamo con noi Aldo Varenna, responsabile estero dell'ANASF e membro del comitato esecutivo dell'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari. Poi vi farò ascoltare anche dalla sua viva voce l'esperienza di un ex promotore che adesso si è dato alla consulenza finanziaria indipendente, per farci raccontare che cosa è cambiato anche nei termini di approccio con la propria clientela. E questa persona sarà Graziano Cini. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Ci piacerebbe sentire proprio come la pensate su questo tema, se in realtà è stato poi magari mai oggetto anche di qualche vostra considerazione. 349 238 6666 è invece il numero per i vostri messaggi. Il quadro di mercato questa mattina sembra piuttosto positivo, l'apertura era stata buona, poi c'è stato a metà mattinata un certo rallentamento fra le borse europee, adesso stanno tornando tutte a rafforzarsi. Francoforte sta sfiorando un guadagno di quasi 2 punti, Parigi più 1,79, Londra più 1,34, Milano un pochino più indietro, sta, come dire, performando come Londra, più 1,37% sull'S&P MIB, più 1,35% sul MIB. Le stanno rassicurando il mercato le indicazioni che sono arrivate in nottata dal presidente americano Barack Obama, ma ancor di più quelle che sono arrivate ieri dal presidente della Banca Centrale Americana Bernanke, che ha detto: potremmo cominciare già a parlare di ripresa a partire dal 2010, naturalmente a patto che i mercati si rasserenino un po'. A Piazza Affari occhi puntati oggi su Impregilo, il titolo sta crescendo di quasi il 6% in questo momento, l'Espresso più 5,11%, ma soprattutto stanno crescendo molto i titoli bancari: Unicredit più 4,78%, Intesa San Paolo più 4,45%, Mediolanum più 4%. I titoli bancari stanno aspettando l'emanazione da parte del governo, la firma verrà oggi, dei decreti attuativi dei cosiddetti Tremonti Bond, cioè quelle quei prodotti che chiamiamoli così, non è neanche la definizione adatta, quegli strumenti che il governo mette a disposizione delle banche per consentire a loro di ripatrimonializzarsi in questo momento, rafforzare anzi il proprio patrimonio di vigilanza e quindi consentire alle banche di affrontare al meglio la crisi attuale. Ne parleremo sicuramente anche nei prossimi giorni, probabilmente ne parliamo anche domani mattina alle 8:15 a Soldi e Dintorni. Non tutte le banche stanno crescendo però, perché la Banca Popolare di Milano guida il plotone dei titoli al ribasso, meno 4,43, seguito da Alleanza, meno 1,59, in un mercato che sta a quanto pare continuando a bocciare la formalizzata fusione con la controllante Generali, che anche oggi a Piazza Affari sta perdendo mezzo punto. Tra gli altri ribassi, Terna, meno 1,41, Snam Rete Gas, meno 0,9, l'Ottomatica, meno 0,9%. Abbiamo un rapporto euro-dollaro a 1,28,38, questo è il quadro di mercato che adesso abbandoniamo subito per andare al tema di oggi. Parliamo di consulenza finanziaria e sentiamo un po' che passi avanti sono stati fatti di recente nel nostro paese. Stabilità e sicurezza sono queste le parole d'ordine che guidano le scelte dei risparmiatori. In questo difficile momento, caratterizzato da una pesante instabilità delle borse e da una forte delusione di grandi e piccoli investitori, è più che mai diffusa l'esigenza di poter contare su misure, ma soprattutto persone, che consentano di superare la fase critica. Ed è proprio in questo scenario che ha preso sempre più piede la figura del consulente finanziario indipendente, che, a differenza delle tradizionali figure operanti nel settore della consulenza, non percepisce provvigioni da commissioni d'alcun genere, da banche, SIM o SGR, ma viene remunerato esclusivamente dal cliente per il servizio offerto. Il consulente si occupa della pianificazione patrimoniale del proprio cliente, con cui deve trascorrere del tempo per capire bisogni e obiettivi e valutare insieme la strategia di investimento migliore. Una professione istituzionalizzata dalla MiFID, la direttiva europea sugli intermediari e sui mercati finanziari, che mirava a eliminare il conflitto di interessi tra chi vende il prodotto e la società emittente. Una figura che da quest'anno può contare su un proprio albo professionale. Ma quali sono i requisiti per diventare un consulente indipendente? Innanzitutto è necessario possedere un titolo di studio pari o superiore al diploma secondario e naturalmente una conoscenza specialistica in materie economiche, giuridiche e finanziarie che verranno testate attraverso un vero e proprio esame. Non devono invece sostenere prove promotori e bancari che, rinunciando alla precedente attività, decidono di iscriversi all'albo. E mentre muove i primi passi, l'albo dei consulenti indipendenti, secondo alcuni, si pone già in contrasto con un'altra realtà, quella dei promotori finanziari. L'importante, in ogni caso, è che le varie novità in atto contribuiscano a ridare slancio al comparto dei servizi di gestione, che potrebbe così ripartire e infondere una buona dose di fiducia, oggi più che mai necessaria, ai risparmiatori. Risparmiatori che vedo già molto attivi ai nostri numeri, sia all'800 24 00 24 per intervenire in diretta, ma anche al 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Io rivolgo subito a Cesare Armellini, presidente, oltre che di Consultic, anche del NAFOP, che è l'Associazione Nazionale dei Consulenti Indipendenti, anche se in realtà l'acronimo racchiude una definizione tutta in inglese. Presidente, Christian da Bologna ci scrive subito: dove si trovano i consulenti indipendenti? Beh, intanto magari andando a guardare sul sito dell'associazione possiamo trovare quello più vicino a casa nostra. Buongiorno, intanto benvenuto a Salva Danaio. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, beh, dove si possono trovare è molto semplice per chi almeno utilizza l'online. Ecco, sul sito dell'associazione www.nafop.org c'è proprio una piantina in cui si trovano tutti i vari studi di consulenza finanziaria indipendente. Sono divisi anche per province e per regioni. Ecco, la domanda di Christian sicuramente presta il fianco anche alla prima considerazione, Presidente, che posso fare con lei. È una realtà estremamente giovane che, come dire, si sta definendo anche in questo momento, da pochi anni dal punto di vista legislativo. Adesso è partito l'albo dei consulenti finanziari indipendenti, presto partirà il cosiddetto organismo che è, come dire, l'organo proprio chiamato alla direzione dell'albo in qualche maniera. Ci spieghi meglio che cosa sta succedendo? Allora, intanto questa professione è stata liberalizzata nel dicembre del 1996 e quindi professionisti che attualmente sono operativi sono professionisti che hanno anche parecchi, diciamo, ormai quasi più di un decennio di esperienza. Detto questo, A questo punto si vuole regolamentare la figura in base alla direttiva europea. Siamo in un momento importante, in quanto il 24 di dicembre del 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha praticamente emanato il decreto che regolarizza, diciamo, i requisiti per poter accedere all'albo, quindi requisiti di professionalità, indipendenza, patrimoniali. A questo punto il passaggio successivo è quella della operatività dell'albo. Per arrivare all'operatività effettiva dell'albo occorre prima la costituzione dell'organismo, organismo di vigilanza sull'albo. Questo organismo di vigilanza sembra che debba uscire a giorni, se non, io spero al massimo entro qualche settimana. Mi sono appena sentito con il Ministero, col dottor Rivera, che mi ha detto che la pronuncia è imminente. Entro 6 mesi dalla costituzione dell'organismo sarà operativo l'albo, quindi ormai i giochi sembrano fatti. Ecco, però questo non significa che sia pienamente operativa questa realtà in Italia, Presidente Armellini. Operativa, allora i consulenti finanziari indipendenti sono operativi da anni. Con la costruzione dell'albo ci sarà un albo professionale in cui il risparmiatore potrà fare riferimento a questa figura. È solamente un accreditamento di figure già esistenti sul mercato. Quanti sono in Italia, Presidente? Noi possiamo fare una stima. Noi ipotizziamo che consulenti finanziari veramente indipendenti, come è stabilito nei requisiti di indipendenza stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e quindi assolutamente privi di qualsiasi conflitto di interesse, ritengo che noi siano dai 500 ai 700 soggetti. Ecco, tanto per far capire esattamente come funziona il nostro lavoro, poi naturalmente andrò anche a sentire quali sono le differenze con il lavoro di promotore finanziario vero e proprio, che ha un mandato da parte di una banca all'esercizio di questa professione, soprattutto al collocamento e alla vendita di prodotti. La differenza fondamentale dal promotore finanziario, credo di averla già data, Presidente: il consulente indipendente non ha nessun mandato a vendere nessun prodotto, semplicemente traccia il profilo dell'investitore e gli dice quali sarebbero i migliori investimenti, quelli che fanno al caso proprio. Certo, il promotore finanziario, come ha detto lei, è un agente monomandatario di una banca o una società di intermediazione mobiliare, e quindi vende i servizi della banca o della SIM, mentre il consulente è un professionista, come un commercialista o un avvocato, e quindi direttamente stacca la parcella al suo cliente. Ci sono due mestieri diversi, però, perché si crea la confusione tra due soggetti. Un soggetto, praticamente il consulente, tra le prime attività che svolge sono quelle, ad esempio, di analizzare l'efficienza delle banche, sia fisiche sia online, e andare poi a trattare tutte le condizioni che il suo cliente ha presso la banca o se ha più banche. Cosa ovviamente che non è fattibile da chi invece vende, vuol dire, i prodotti della banca o... Certo, quindi paradossalmente, Presidente, seguendo un cliente può esserci anche, si potrebbe manifestare il caso in cui un consulente indipendente possa andare a trattare con il promotore di quello stesso cliente. Questa cosa avviene spesso. Certo. Poi ovviamente bisogna dire una cosa, che nella consulenza, siccome non esistono... non riceve il consulente indipendente nessuna commissione da banche, eccetera, che cosa succede? Succede che, siccome il promotore finanziario è remunerato soprattutto da una parte delle commissioni di gestione dei prodotti, nel momento in cui sembra che a breve, fra qualche mese, sarà operativa la quotazione dei prodotti, ipotizziamo sulla borsa italiana o su qualche altra piattaforma, a questo punto il cliente potrà accedere direttamente al prodotto con commissioni ridotte, quindi non ci sarà più la commissione per il promotore finanziario. Certo, questo comunque è un passaggio in avanti, del quale magari avremo modo di discutere nel corso della trasmissione. Aldo Varenna, naturalmente non mi sono dimenticata di lei, volevo far spiegare che cosa ci fosse dietro all'evoluzione di questa professionalità nel nostro paese, che appunto è piuttosto giovane rispetto invece a quella che ha una traduzione molto più consolidata in Italia, la realtà dei promotori finanziari. Ricordavo prima, nel 2007 l'associazione addirittura di categoria ha celebrato i 30 anni di vita. Come hanno accolto i promotori l'avvento esempio di questa novità, perché, come spiegavo appunto, nel nostro paese quella della consulenza finanziaria indipendente è percepita ancora come tale. Buongiorno e benvenuto anche a lei, a Salva Danaio. Buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e ovviamente anche al dottor Armellini. Direi innanzitutto una premessa doverosa. L'associazione non è assolutamente contraria alla venuta di nuove figure, quale consulenti fiolli, quelli sulla parcella. Anzi, è stata nostra premura lavorare con le istituzioni per cercare di capire l'applicazione della MiFID. L'importante abbiamo sempre chiesto, ed è fortunatamente avvenuto o avverrà fra qualche mese quello che abbiamo chiesto, che ci sia parità di trattamento a completa tutela dell'investitore, ossia un albo, noi siamo vecchi di albo professionale di promotore finanziario, ricordo che per accedere all'albo bisogna fare un esame che è appena cambiato da poco con la nascita del nuovo organismo, e ovviamente abbiamo un codice in realtà deontologico vecchio come associazione, ma dal punto di vista di normativa e di controllo è una professione che è ben normata e ben controllata e quindi a tutela del risparmiatore. Quindi chiedevamo per la nuova figura professionale dei consulenti finolli esattamente lo stesso approccio e ciò sta avvenendo. Ci sarà, diceva il dottor Merlini, un albo, un organismo, ci sarà ovviamente un accesso che per quanto riguarda i promotori sono stati considerati operatori qualificati, quindi che in assenza di mandato, poi entreremo nel merito, potranno accedere all'albo dei consulenti fiolli. Quindi in realtà la nostra associazione si pone in maniera totalmente aperta dal punto di vista di approccio professionale, io poi andrò a fare una differenza, in maniera lineare e chiara, a patto, come dicevo, che ci sia uguale tutela e uguale qualità di aggiornamento e di accesso che nell'albo dei promotori finanziari. Ecco, naturalmente poi a noi stamattina interessa anche analizzare la professione dal punto di vista del vantaggio per un piccolo investitore, per un piccolo risparmiatore, del rivolgersi ad una figura piuttosto che a un'altra, oppure quando è il caso di mettere insieme le due professionalità per gestire al meglio il proprio portafoglio di investimento. Ci sono però già molte domande di ascoltatori pronti ad intervenire. Faccio un rapido saluto a Graziano Cini, che ci racconterà la sua esperienza entro breve, dalle Marche. Cini, buongiorno. Buongiorno Deborah. E grazie di essere con noi. Io però vorrei sentire intanto un ascoltatore per poi entrare nel merito anche di tutti gli altri aspetti della questione che affrontiamo quest'oggi. Andrea da Monza, benvenuto. Buongiorno a tutti. Andrea, salve. Ci dica. Allora, io sono promotore finanziario dal 98, ho esercitato la professione per qualche tempo, ora sono un private banker di una banca estera che lavora in Italia. Sì. Sto valutando l'idea di cambiare e di fare consulente finanziario. Ieri ero proprio sul sito del NAFOP per raccogliere delle informazioni e però non l'ho trovato, di trovare delle linee guida per avviare il ragionamento in qualche modo, nel senso che chiaramente è una cosa che io non posso improvvisare. Certamente, Andrea. Speravo di avere dal presidente Armellini una guida operativa anche proprio per fare il passaggio. Andrea, perché lei vuole cambiare? Diciamo che mi piace rapportarmi ai clienti parlando dei loro soldi e non dei miei prodotti, quindi questa è la cosa che loro apprezzano di me, lo apprezza un po' meno il mio datore di lavoro. E certo, perché comunque è oggettivo che va riconosciuto che il problema del conflitto di interesse c'è. Poi non è detto che un promotore finanziario che faccia al meglio il proprio lavoro possa esercitare appieno anche un'attività di consulenza, e quindi anche vendendo i prodotti della propria casa si può costruire comunque un giardinetto di prodotti che sia assolutamente adeguato per l'investitore, però di fatto c'è una forzatura e questa va riconosciuta e sicuramente la categoria ne è pienamente consapevole. Eccoci ritrovati in diretta. Io devo dire che non me l'aspettavo tutte queste telefonate che stanno arrivando questa mattina da parte di molti ascoltatori che sono molto interessati ad interagire con il piccolo dibattito che abbiamo attivato. Stiamo parlando della differenza fra il fare consulenza finanziaria indipendente e fare invece il promotore finanziario, non solo dal punto di vista ovviamente di chi esercita questa professione, ma soprattutto dal punto di vista dell'approccio al cliente. Qual è la miglior figura alla quale ci possiamo rivolgere? In realtà realtà abbiamo scoperto che non sono esattamente incompatibili, ma anzi nell'ambito di un'assistenza finanziaria nei nostri riguardi forse le due figure si possono anche incontrare. Allora, abbiamo sentito il caso di Andrea, di un ascoltatore che ci ha raccontato che esercita in questo momento la professione di private banker e vorrebbe però, come dire, fare il passaggio, diventare un consulente indipendente, perché dice: io vorrei diventare la persona che realmente fa consulenza finanziaria al mio cliente e non essere quello che fa solo ed esclusivamente l'interesse dell'azienda per la quale lavoro, che mi spinge inevitabilmente anche a vendere i propri prodotti. Allora, noi vi avevamo promesso che vi avremmo raccontato l'esperienza di chi ha fatto questo passaggio, anche se non esattamente nei termini raccontati dall'ascoltatore poco fa. Graziano Cini, ancora buongiorno. Un passato da private banker, adesso consulente finanziario indipendente. Vantaggi della prima esperienza, svantaggi della prima esperienza, vantaggi e svantaggi della seconda. Allora, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Sì, diciamo, la cosa principale è questa. Ho lavorato 35 anni in banca, per cui per me passare alla consulenza indipendente non è stato un salto nel buio, non è stato traumatico. Cioè, dopo 35 anni potevo lasciare la banca senza il pericolo, e quindi un mestiere di consulente indipendente però è comunque un mestiere nuovo, un mestiere che ha tutti i crismi di un'attività da pionieri, in poche parole, quindi l'ho potuto fare con una certa tranquillità. Diciamo, volevo chiarire subito una cosa, che non sono il soggetto che disconosce il lavoro fatto in banca per 35 anni, cioè, perché in banca ho imparato il mestiere. Nella banca però oggi conosco perfettamente pregi e difetti. Diciamo, nello specifico poi mi sono occupato di fondi comuni per circa 20 anni, uh-huh. Quindi dall'inizio come un addetto titoli e poi da ultimo come formatore della rete di vendita, per cui la conoscenza della consulenza indipendente mi è arrivata proprio dalla formazione. Cioè, fin dai primi passi ho seguito Consultic, ho seguito la sua attività, i suoi manuali, e mi ha immediatamente affascinato. Diciamo che aprire uno studio di consulenza indipendente per me è stato facile proprio appoggiandomi a un network come Consultic, perché lì ho avuto praticamente tutto l'aiuto necessario per capire quello che si doveva fare per aprire l'attività. Ecco, quindi, invece guardiamola dal punto di vista dei risparmiatori e degli investitori che sta seguendo. Qual era l'approccio che utilizzava prima e come è cambiato in questo momento? Perché io credo che in 35 anni di lavoro lei abbia anche, ovviamente sarà stato anche spinto dalla banca per la quale doveva collocare i prodotti, ma immagino che fosse anche professionalmente portato a garantire la miglior consulenza possibile ai suoi clienti. C'è stato un drastico cambio di rotta con questa nuova esperienza? Diciamo, il drastico cambio di rotta è proprio nella visione diversa dei prodotti che sono a disposizione. Cioè, praticamente in banca avevo sul mio scaffale una serie di prodotti. Questi prodotti andavano venduti, però naturalmente io ero pagato da quel datore di lavoro, per cui dovevo vendere quei prodotti al mio cliente. Da quel prodotto si creava sulla base, si creava il conto economico della banca, in poche parole. Ecco, quindi non avevo la possibilità chiaramente di arrivare a tutto quello che c'era di buono sul mercato e che costava anche di meno, fondamentalmente. Diciamo, la visione che ho adesso è una visione completamente, è un orizzonte completamente diverso. Mi dica, con tutta l'onestà intellettuale di cui so è assolutamente dotato, lei oggi sta andando dai vecchi clienti che seguiva quando faceva il private banker per la sua vecchia banca, che tra l'altro, vorrei solamente citarlo senza dire il nome, è la più grande banca italiana, e sta dicendo loro: vi ho fatto una consulenza un po' pilotata in passato e adesso forse è il caso che abbandoniate quei prodotti per guardarvi intorno? Diciamo che è estremamente difficile, infatti, per me l'approccio, perché l'approccio con la clientela ha la sua complessità. Cioè, quindi andare dal cliente e dirgli: guarda, io oggi fino a ieri ero dall'altra parte, oggi ho fatto il salto del bancone, mi siedo accanto a te e guardiamo le cose che io stesso ti ho venduto, perché questo è veramente uno dei problemi. Ma in effetti il mondo è cambiato da questo punto di vista, anche perché, non so, io ho sposato completamente i fondi comuni di investimento fin dalla loro nascita. Fino al 2001 c'era tutta una serie di prodotti che non erano possibili, per esempio non era possibile acquistare in banca, per esempio parlo degli ETF, no? Prodotti con sostanziali commissioni inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento. Quindi il mondo è cambiato, l'offerta è cambiata, oggi la difficoltà, il cliente mi dice vabbè, cioè, fino a ieri mi hai offerto questo, oggi mi dici che sei indipendente. È chiaro che ci sia una comprensibile diffidenza iniziale. Anche nei suoi riguardi personali, immagino, perché comunque la guarderanno come quella figura, insomma, che magari, non dico, lei diceva giustamente, io non sconfesso certo il mio passato, però di fatto in parte deve anche farlo, in maniera molto elegante e diplomatica, ma un po' dovrà anche farlo. Assolutamente sì, cioè, questo purtroppo lo devo fare, ed è una diciamo è la parte difficile del suo lavoro in questo momento. Cioè, diciamo sì. Che il mio scopo fondamentale a questo punto è di far capire, fare percepire la differenza che c'è sostanziale di un lavoratore dipendente che fa consulenza e di un libero professionista. Che però insomma può anche farla nel miglior modo possibile. Aldo Varenna, torno a lei per farle replicare, se vuole, non è che ce ne sia molto bisogno, le considerazioni di Graziano Cini, però magari su un punto specifico che le chiedo, anche se poi ci sono tanti ascoltatori che vogliono intervenire. Lui diceva, io mi sono accorto della differenza soprattutto rispetto allo scaffale dei prodotti che avevo a disposizione, che erano di un determinato tipo prima quando lavoravo per la banca, e adesso ovviamente non ho tanti prodotti da vendere perché il consulente finanziario indipendente non li può vendere, ma sicuramente ho una rosa più ampia da suggerire al mio cliente. Questa però è una realtà che come dire, oggi è vera anche per i promotori finanziari, perché le società che collocano prodotti di investimento, le banche stanno ampliando la loro offerta e adesso possono mettere sul mercato prodotti di più case di investimento, per esempio. Sì, innanzitutto una doverosa promessa. Io rappresento un'associazione ANAF che siamo in 12.000 iscritti e il 90, presumo se non il 100% dei nostri iscritti sono liberi professionisti, per cui ringrazio il collega, ma il nostro esempio non calza col suo esempio. È completamente diverso aver fatto 30 anni da lavoratore dipendente. Io sono 25 anni l'anno prossimo che svolgo questa professione con un mandato da libero professionista, per cui in maniera deontologica e professionale se ritengo che l'azienda che con la quale collaboro da libero professionista, non sì, dipendente. Non da dipendente, però con un mandato esplicito sì, di un'unica casa. Se non ha la qualità, sono liberissimo di cercare un'altra azienda. Va bene, abbiamo fatto questa precisazione. La premessa era doverosa per arrivare poi al punto che, la ringrazio per la domanda. Oggi la legge dà esattamente tre figure professionali. La figura professionale che svolge solo consulenza fiolli senza avere mandato, la figura che è quella del promotore finanziario che può solo proporre prodotti, o la figura che è quella del promotore che può in prima istanza costruire un asset allocation, e perché da mandato con la società mandante può fare attività di consulenza. Dopodiché può o meno, e come lei sa ci sono molte grandi aziende ma anche piccole, quindi non pensiamo solo al mondo bancario, non è che il mondo dei promotori è solo fatto da grandi banche ma da una pluralità di soggetti. Persone giuridiche, persone fisiche, quindi può offrire l'asset allocation cosiddetta strategica, dopodiché può in seconda istanza offrire anche prodotti propri o di terzi. Ricordo che gli ETF non sono a escluso uso dei consulenti fiolli e nel mio caso ho più o meno 3.500 comparti di SICAV che posso proporre alla mia clientela con 15 case di investimento. Ritengo, con ovviamente il massimo di chiarezza, che se si vuole fare un'attività di consulenza serio si abbia la possibilità di farlo. Ricordo che se si perde un cliente e se è un libero professionista perdi esattamente un asset della tua piccola azienda, che è completamente diverso da essere dipendente. Quindi tutto quello che noi abbiamo trattato oggi dell'education, dell'aggiornamento professionale, dell'odontologia, è nel mondo dei promotori un must, proprio perché non è un dipendente, quindi in realtà è un piccolo imprenditore che se lavora male fa del danno alla sua piccola azienda. E soprattutto noi come risparmiatori che poi fruiamo di questi servizi dobbiamo anche essere nelle condizioni di maggior lucidità possibile per poter chiedere questo servizio al meglio, sia che lo chiediamo al consulente indipendente, sia che lo chiediamo appunto al promotore finanziario, ovviamente conoscendo vedendo anche adesso la realtà dei consulenti indipendenti che si sta formando e sempre di più evolvendo, forse saremo portati anche a chiedere una maggior professionalità al promotore qualora avessimo il dubbio che questa figura che abbiamo davanti voglia venderci solo il prodotto della propria casa. No, sappiate tutto quello che anche ci ha spiegato Varenna, che adesso le banche o anche altre istituzioni, come lui ci diceva, possono avere la disponibilità di prodotti di più case, per cui che ci trovi il prodotto che fa per noi, magari anche quello che costa meglio e che gli porta un po' meno commissioni. Pierluigi da Milano, poi ritorno naturalmente ad Armellini sulla domanda del primo ascoltatore che vuole sapere come fare ad accedere alla professione se vuole fare il cambiamento. Pierluigi da Milano ci dà però modo anche di arricchire la considerazione che vorrei fare con Armellini. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo sapere più o meno quanto viene a costare questo servizio di consulenza. Infatti, Pierluigi, brava. Ovviamente, essendo liberi professionisti, immagino non ci sia un vincolo di tariffa o di parcella. Però per fare una comparazione con le consulenze offerte dalle banche, certo, che a volte vengono calcolate in base al numero di operazioni, sulla base di una percentuale sull'importo di ogni operazione, oppure una commissione annua sull'intero portafoglio. Per fare un raffronto, si può avere un'idea dei costi? Certo, giustamente. Potenza? Pierluigi, la ringrazio per la sua domanda, che mi ruba giustamente il lavoro, perché questo è un punto che è sulla bocca di tutti gli ascoltatori che vorrebbero intervenire questa mattina e di molti altri che ci hanno scritto. C'era un ascoltatore che ci scrive: io sono solo un operaio, me lo posso permettere? 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione se vorrete esprimerci le vostre considerazioni sul tema che affrontiamo questa mattina: la consulenza finanziaria indipendente, in che cosa consiste e quanto costa. Adesso andiamo nel merito di questo aspetto e soprattutto in rapporto all'esercizio della consulenza che meglio conosciamo, quella che ha avuto, non dico quasi il dominio del mercato negli ultimi anni, ma sicuramente ci andiamo molto vicini, quella del promotore finanziario. Cesare Armellini, presidente dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Indipendenti. Allora, intanto, primo punto, dovevamo accontentare il primo ascoltatore l'accesso alla professione per chi vuole fare questo passaggio, e poi il tema delicatissimo, molto importante, dei costi della consulenza indipendente. Allora, intanto, per chi vuole fare questo passaggio, noi dobbiamo aspettare che ci sia il regolamento CONSOB, che è sempre stato stabilito dall'articolo 18 bis, che dovrà emanare delle regolamentazioni che riguardano proprio l'iscrizione all'albo, cause di sospensione, radiazione, eccetera. Quindi dobbiamo aspettare un attimino. Quindi Andrea, qualora volesse cominciare ad interessarsi a questo discorso, gli suggeriamo di aspettare ancora un po'? Può monitorare il nostro sito NAFO, poi iscriversi alla newsletter, perché poi metteremo a disposizione di tutti quanti tutte le procedure per potersi iscrivere all'albo e tutti gli adempimenti. Ecco, questa è primo aspetto, d'accordo. Primo Andiamo aspetto. Al secondo, quello dei costi, invece, perché c'è la percezione che la consulenza finanziaria indipendente costi, che sia un servizio riservato solo a chi se lo può permettere, che abbia dei patrimoni piuttosto interessanti da gestire. Ad un piccolo questo servizio non è consentito, Armellini? Allora, noi abbiamo fatto e facciamo consulenza anche a risparmiatori che ritengo piccoli. Ma piccoli perché? Perché bisogna aprire una piccola parentesi: il servizio vero e reale del consulente finanziario indipendente è quello della pianificazione. Se noi non passiamo dalla pianificazione, e quindi ed è quello che noi facciamo tutti i giorni, insegniamo a fare a tutti quelli che vengono da noi, in cui io devo sapere esattamente tutto il discorso assicurativo, previdenziale, patrimoniale, se un appartamento pago un affitto, se ha dei mutui, solamente avendo un quadro generale del soggetto, allora è possibile fargli la consulenza. Se no non è possibile, noi non consigliamo di avviare nessuna consulenza. Per l'operaio che sono venuti qui da noi, eccetera, noi abbiamo fatto la consulenza sull'assicurativo, sul previdenziale e poi per quello che riguardava i 20.000 euro, 30.000 euro, l'abbiamo consigliato, ma possiamo dire in maniera gratuita. Addirittura? Ma sì, perché su questi soggetti che hanno, diciamo, che sono, hanno soprattutto, ecco, ci troviamo di fronte anche chi ha dei mutui. Purtroppo il grosso problema che è venuto fuori anche negli Stati Uniti è che chi non aveva la possibilità di accedere a un consulente, o non aveva la cultura, purtroppo dobbiamo dire di cultura di accedere al consulente, ha fatto dei mutui a tasso variabile o non poteva a permetterseli di farseli perché non ha avuto un consulente. Ecco, però Pierluigi da Milano non credo si riferisse a questo, Presidente. Lui dice: vorrei avere una panoramica dei costi che devo sostenere per accedere ad un servizio come questo, per raffrontarlo anche con il costo che devo sostenere se sottoscrivo un prodotto di investimento presso la banca, che non ha un costo palese ed esplicito, magari è ovviamente insito come commissione nel prodotto che ho scelto da sottoscrivere. Quindi per avere dei termini di raffronto, che cosa deve fare un risparmiatore? Allora, i costi del risparmio gestito, diciamo dei prodotti che attualmente compongono il portafoglio degli italiani, da questi prodotti ci sono dei prelievi medi annui, cioè che ogni giorno gli vengono prelevati e che ammontano ogni anno del 3,5%, il che significa che un soggetto che ha 100.000 euro non sa che vengono prelevati dal sistema, in vari modi, ovviamente trasparenti o non trasparenti, 3.500 euro in un anno, il che significa che entro anni gli vengono prelevati 10.000 euro. Purtroppo anche l'analisi Mediobanca ha dimostrato che solamente il 2% delle gestioni effettivamente è riuscita a fare meglio del mercato in cui è andato a investire, il che significa che chi si rivolge a un consulente indipendente ha un vantaggio immediato di riduzione dei costi estremamente significativo. Perché immediato? Perché magari, ma se voi scoprite come consulenti indipendenti che comunque il giardinetto di prodotti che un investitore ha è adeguato alle sue esigenze di risparmio e di investimento, questo non significa che quelle commissioni che paga su quei prodotti vengono a scomparire misteriosamente. A quelle commissioni là si vengono ad aggiungere anche i costi della consulenza indipendente. Purtroppo la realtà è diversa. Noi non abbiamo, personalmente non abbiamo mai incontrato un soggetto, anzi, riportando i dati italiani, ci sono 1.000 miliardi di prodotti già venduti, che si trovano già nelle tasche degli italiani. 1.000 miliardi di euro sono praticamente 2 milioni di miliardi delle vecchie lire, che sono già giacenti nelle tasche, in cui il 98% Mediobanca, ma anche noi come Consul, che abbiamo già analizzato e abbiamo ampiamente dimostrato che purtroppo non sono premiate le vere gestioni attive. Va bene, ma questo è un problema magari un po' più complesso, Armellini, che non abbiamo il tempo di affrontare questa mattina. Quello che volevo dire io è che magari per dire ad un risparmiatore sì, il tuo giardinetto di prodotti è adeguato o non è adeguato, magari è insoddisfacente in questo momento, comunque non è che gli elimina i costi che ha già sostenuto per quei prodotti. A questi costi che già sostiene gli si aggiungono anche quelli della consulenza indipendente, che poi uno può anche scegliere di affrontare, cioè non è che lo metto in discussione assolutamente. Quindi è difficile, insomma, come dire, affrontare questo discorso esclusivamente dal punto di vista degli oneri che un risparmiatore deve sostenere. Aldo Varenna, voleva aggiungere qualcosa rispetto a questo? Sì, io inviterei il dottor Armellini con molto piacere ad assistere a qualche nostro seminario. Lui sa che esiste EFPA perché è una creatura di ANAS, è una fondazione, e so, ovviamente, mi fa piacere che molti dei suoi corsi vengano certificati EFPA. Il nostro mondo, che è il mondo dei promotori, è lontano anni luce rispetto a 30 anni fa, quando ci chiamavamo consulenti finanziari, ma lì sì che non eravamo consulenti. In realtà nei nostri seminari si tratta di pianificazione fiscale, pianificazione successoria, controllo del rischio, metodi di rischio, finanza comportamentale, quindi parliamo di argomenti che sono lontano anni luce dalla vendita di un prodotto. Tutto ciò premesso, ritengo che anche un'analisi, seppur seria, di Mediobanca sia innanzitutto fatta in maniera parziale, nel senso che bisogna essere oggettivi nel dire che il 90% di un risultato di un portafoglio, di un patrimonio, viene fatto dall'asset allocation. Solo il 10% viene fatto dai singoli strumenti inseriti nell'asset allocation. Quindi chiederei ai consulenti indipendenti cosa è successo nel 2008, quando con fantastici ETF, magari fatti sui mercati emergenti, magari fatti sul petrolio a $140, cosa succede oggi di quelle quotazioni. Quindi, per concludere, non c'è uno strumento che va decisamente meglio di altri. Certo, sì, e sono concorde con voi, che il gestore pessimo, il gestore scarso di fondi va in assoluto abbandonato per cercare l'efficienza. Dopodiché l'efficienza è costruita con una sana costruzione di consulenza, di asset allocation, che ritengo la categoria, e ripeto, invito a visitare il sito, ad andare a vedere cosa facciamo di certificazione professionale, la nostra categoria è decisamente molto avanti, anche a livello europeo, dal punto di vista di tutela e abbiamo, di garanzia di formazione. Abbiamo capito perfettamente, Varenna. Vorrei sentire, purtroppo ci rimangono due minuti prima di salutarci, un paio di ascoltatori se riesco. Maria Pia da Varese, ci tenevo molto a sentire una signora, buongiorno. Sì, buongiorno. Molto rapida se ce la fa, sì, grazie. E io mi sono rivolta a un promotore finanziario non per un investimento ma per una surroga di un mutuo. Sì. E niente, io ho trovato molto più conveniente l'offerta che mi ha fatto il promotore su una popolare, perché lui si appoggiava alle popolari, certo, che andando direttamente alla popolare. Cioè la popolare, la banca stessa non riusciva a farmi la rata mensile uguale a quella che mi aveva fatto poi il promotore. Quindi insomma senza nessun tipo di investimento lei ha trovato che questo canale fosse corretto per lei, giusto, adeguato, appropriato per risolvere anche un problema che stanno affrontando in molti in questo momento. Maria Pia, la ringrazio per la sua testimonianza, se ce la faccio sento anche Dino da Torino. Dino? Sì, pronto, buongiorno, dottoressa Rosciani, congratulazioni per la trasmissione. Grazie. Senta, come dicevo prima alla sua collaboratrice, io praticamente vivo una condizione intermedia, nel senso che dopo tantissimi anni di banca, adesso faccio il promotore per una SIM che non ha prodotti della casa, non ha certo prodotti propri, quindi infatti lavoriamo proprio in intermediazione. Siamo attrezzati chiaramente per il discorso di consulenza a parcella, perché in realtà da sempre noi siamo l'anello di congiunzione fra la promozione finanziaria e la consulenza parcella. E quindi le due realtà, lei come le vede, Dino? Che con lei devo chiudere tra l'altro, perché siamo arrivati già alle 12.56. Intanto per tutte quelle persone che vorrebbero intraprendere l'attività proprio di consulenza Fionli, potrebbero effettivamente prendere in considerazione una realtà come questa. Il passaggio, no? Alla SIM, sì. Il mercato è orientato in quella direzione sicuramente. E un'ultima considerazione, i portafogli piccoli, quelli che chiedono, ma io me lo posso permettere? Io che valuto portafogli quotidianamente, i portafogli, diciamo così, piccoli, sono quelli più disastrati, per cui forse avrebbe proprio più bisogno il cliente, diciamo così, medio-basso della consulenza. Dino, la ringrazio molto per la sua testimonianza. Abbiamo capito che in realtà gli aspetti rispetto alla questione trattata stamattina sono tanti da affrontare. Allora io vi prometto che ci ritornerò in tempi, speriamo, abbastanza rapidi per potervi dare anche delle, come dire, delle argomentazioni un po' più costruttive e di interesse pratico. Io ringrazio intanto per essere stati con noi Cesare Armellini, Aldo Varenna e Graziano Cini. Salvadanaio termina qua, non riesco a farli salutare direttamente. Ovviamente noi ci sentiamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata. We'll be right back.